qua appunto una mia amica era stata in viaggio e mi ha portato, perché di solito agli amici chiedo di portarmi appunto dei sassi o qualcosa che notano, e mi ha portato questa conchiglia e quando me l'ha portata io ho detto: ma questo è un anello, Già già pronto. pronto. E quindi per questo, ad esempio, ho usato invece la tecnica della fusione, per cui ho fatto lo stampo e l'ho rifuso in argento.